Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In volo sopra Trieste, non solo volanti, nei controlli di Ferragosto della Polizia di Stato, controlli rafforzati in una città piena di turisti. Attenzione particolare per la riviera a Barcola. Prima il caldo asfissiante, poi il tifone. Rientrati poco fa dal raduno mondiale in Corea una trentina di scout della regione. Emergenza ben gestita dal governo coreano, le prime testimonianze. Troppo vicino alle abitazioni non si farà a Spilimbergo il termovalorizzatore. Ad annunciarlo è la regione. Il progetto verrà archiviato se l'azienda che intendeva realizzarlo, la Ecomistral, non ritirerà la domanda. Superbonus, corsa ad ostacoli per completare i lavori entro il 31 dicembre. Missione difficile, considerati i ritardi diffusi e i rallentamenti nei cantieri. Il sovraffollamento nelle carceri, il caso del Coroneo a Trieste, dove la media è di 210 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare che non supera i 150. Aumenta il consumo di ansiolitici e antidepressivi in regione, un trend già presente ma in crescita dopo la pandemia. I dati del rapporto dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali. Ultime due settimane per visitare la mostra Quattro Passi nel cinema di Pier Antonio Quarantotti Gambini al Teatro Miela di Trieste, nella rassegna documenti che raccontano la genesi dei film tratti dalle opere dello scrittore prima della sua scomparsa. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Livia Liberatore e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. I temi della sicurezza in apertura con i controlli aerei di Ferragosto della Polizia di Stato a Trieste. Una telecamera a bordo dell'elicottero collegata con le sale operative registra quello che succede a terra. Ma sentiamo il dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura Giuliana. Con Sebastiano Maione, dirigente della Polizia di Stato, siamo stati in volo sopra Trieste per i controlli, per vedere quello che succede in città e anche per vedere quello che fanno le volanti a terra. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo visto come la Questura di Trieste abbia disposto un rafforzamento del dispositivo ordinario di controllo del territorio in considerazione del notevole afflusso di persone che ha interessato e sta interessando in queste ore la città. In particolare, oltre alle volanti e all'ufficio di gabinetto che quotidianamente si occupano della sicurezza dei cittadini, questo piano è stato condiviso con le specialità della Polizia di Stato che sono presenti sul territorio di Trieste, in particolare con la Polizia Stradale che ha rafforzato i controlli per verificare il rispetto del codice della strada e quindi garantire la sicurezza degli automobilisti, e la Polizia Ferroviaria che invece si occupa della sicurezza di tutti coloro che hanno scelto la comodità del treno per raggiungere le mete della loro vacanza. Parliamo anche della sicurezza in città, perché con un notevole flusso di turisti c'è bisogno anche di maggior controllo. Sì, sicuramente, ovviamente noi attenzioniamo quelle che sono le aree che sono interessate non solo dal flusso quotidiano di cittadini ma anche dai turisti, in particolare la zona del mare, quindi Barcola, che è oggetto della nostra attenzione perché molto spesso i bagnanti lasciano incustoditi quelli che possono essere gli effetti personali e che potrebbero essere a loro volta preda di ladri che si aggirano indisturbati. Quindi noi attraverso questo dispositivo miriamo alla prevenzione e alla repressione di questo tipo di reati, che comunque crea sempre un certo allarme sociale. Ovviamente rafforziamo anche i controlli nel centro cittadino, che è interessato dalle migliaia di turisti che in queste ore stanno visitando la città, e quindi cerchiamo di garantire quella che è la sicurezza in generale per un Ferragosto sereno e tranquillo. Ronchi dei Legionari, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima il caldo asfissiante, poi il tifone. Avventura a lieto fine per una trentina di scout rientrati da poco in Friuli Venezia Giulia dal raduno mondiale in Corea. Un'esperienza indimenticabile che non ha fatto perdere il sorriso ai ragazzi. Sentiamo le loro testimonianze. Arrivate da neppure 24 ore con il sorriso stampato in volto e neppure un cenno di stanchezza, si presentano in divisa di primo mattino alla nostra richiesta di intervista tre scout di Trieste appena rientrate dalla Corea del Sud, dove si è appena concluso il Jamboree, raduno mondiale degli scout, con 43.000 partecipanti, una trentina i giovani dal Friuli Venezia Giulia. Prima il caldo asfissiante, poi l'allarme tifone Kanun che ha imposto l'evacuazione da Semangum con trasferimento di massa a Seul. Malori pesanti, scout di dispersi, ragazzi rimpatriati, niente di vero, rispondono con il sorriso. Le emergenze ci sono state, certo, ma sono state ben gestite, niente di grave. Sì, abbiamo fatto circa 5 ore di pullman, però non penso siano pesate a nessuno in verità. Il caldo era gestibile? E faceva caldo, però ci hanno fornito anche tanta acqua, cappelli, ombrelli, ventilatori. Prendendo le giuste misure, come ci avevano già avvisato, faceva caldo, ma ce la si faceva assolutamente. Com'è andata la gestione dei genitori a distanza? È stata comunque normale come ogni campo, poche telefonate, magari qualche telefonata in più quando ci evacuavano, però è andata comunque molto bene. I genitori in costante contatto con i capi scout si informavano soprattutto sui media coreani. Quelli americani, dicono, troppo sensazionalistici, hanno allarmato più che informato. Per il caldo i contingenti inglesi e statunitensi sono stati spostati per alcuni giorni in alberghi con aria condizionata. Gli italiani no, la voce di un papà. Non sono stati portati in alberghi, gli alberghi sono delle bolle, no? Tu vai lì, rimani chiuso lì dentro, non vedi la realtà. Invece li hanno portati in pensionati universitari dove sono stati vicini anche a altri ragazzi coreani che non erano poi del mondo scout e hanno potuto vedere proprio la vita dei coreani. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Manodopera scarsa e prezzi dei materiali da costruzione in rialzo sono i risultati della richiesta aumentata di lavori edili in Friuli, dovuta allo stesso tempo alle necessità di chi deve riparare i danni delle grandinate di luglio e alle scadenze imminenti del superbonus 100% per le villette unifamiliari. Truffe, aziende che non si trovano, cantieri bloccati, cessione del credito e una corsa ad ostacoli per i condomini iniziare o portare a compimento i lavori di ristrutturazione degli immobili secondo le disposizioni del Superbonus 110. Poca la mano d'opera a disposizione delle imprese e con i recenti eventi atmosferici è meno disponibile. Emanuela Gorgone, presidente provinciale amministratori di condomini. I problemi sono gravissimi, in questo momento sono davvero molto gravi. Le cessioni dei crediti sono incagliate, ciò significa che sia i cittadini e sia le imprese sono in uno stato di preoccupazione e paura, ingenerato dal fatto che possono rispondere anche di queste mancate cessioni, che non fa sì che comunque la società possa continuare ad andare avanti in maniera tranquilla. Una corsa contro il tempo nei condomini, con l'obiettivo di completare lavori agevolati dal superbonus entro il 31 dicembre. Raggiungere l'obiettivo non sarà facile, anche l'industria edile segnala ritardi diffusi e rallentamenti nei cantieri, spesso dovuti a crediti incagliati, a mancanza di liquidità. Anche chi ha ottenuto promesse di acquisto ha difficoltà a rispettare i tempi a causa del rallentamento nella cessione dei crediti. Si è letto qualcosa sui giornali di una proroga quantomeno per i condomini di 3 o 6 mesi, che comunque non è sufficiente per completare i cantieri che ci sono adesso, che si sono incagliati proprio per tutte le problematiche di una normativa veramente fatta malissimo. Quali le soluzioni? Bisognerebbe agire veramente a livello normativo, prima di tutto nel prolungare in maniera seria le scadenze per i cantieri che hanno già i requisiti per poter andare avanti. E soprattutto ricalibrare anche tutto quello che sono i bonus esistenti al momento, in maniera che le aziende, le famiglie possano riconsiderarli su un arco di tempo di almeno 10 anni. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Non si farà il termovalorizzatore a Spilimbergo, ad annunciarlo l'assessore regionale all'ambiente Scocci Marro. Poco meno di 2 mesi fa a Pordenone ho incontrato il sindaco di Spilimbergo con i suoi colleghi primi cittadini interessati dal progetto del nuovo termovalorizzatore. Avevo condiviso le loro perplessità e garantito la massima attenzione degli uffici, come sempre, nel valutare l'istanza e garantire la salute e la tutela dell'ambiente. Oggi posso annunciare che il nuovo impianto non verrà realizzato perché troppo vicino alle abitazioni. Così Scocci Marro ha preannunciato la vicina chiusura dell'iter amministrativo che avrebbe potuto autorizzare l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con produzione di energia elettrica della società Ecomistral, la quale ha presentato domanda di provvedimento autorizzatorio unico regionale alla regione. Il progetto verrà archiviato se il proponente non ritirerà la domanda, ha detto Scocci Marro. Non passa un weekend senza uno o più interventi in montagna da parte del soccorso alpino. L'ultimo ieri, un ragazzo di 29 anni disperso nella zona del torrente Palar ad Alesso, in comune di Trasaghis, recuperato dopo 90 minuti di ricerche. Ma anche se in vacanza ci si appresta a percorrere itinerari escursionistici privi di difficoltà, in montagna non esiste il rischio zero. Ecco alcune avvertenze da parte del presidente del soccorso alpino regionale. Repetita iuvant, ripetere le cose giova. La sentenza latina ben s'addice per i consigli e raccomandazioni a chi, soprattutto escursionista semplice, va in montagna, in territori di infinita bellezza che rappresentano insidie che bisogna conoscere e saper affrontare. Lo dimostrano i numeri degli interventi del soccorso alpino, che tra le sue finalità anche quelle di incrementare la conoscenza e sicurezza dell'andar per monti. Come sta andando la stagione in Friuli Venezia Giulia? Sergio Buricelli, il presidente del soccorso alpino e speleologico regionale. È in linea con i numeri degli scorsi anni, anche se negli ultimi giorni, nelle ultime settimane c'è stato un incremento piuttosto importante, legato sicuramente al periodo di ferie e al miglioramento del tempo. Quali consigli base? Imparare a conoscere l'ambiente in cui ci muoviamo e di pianificare sempre molto bene la gita. A volte ci troviamo a soccorrere delle persone che non si sono avvicinate gradualmente all'ambiente alpinistico. Poi sono anche delle situazioni di pericolo legate a una forma fisica non ideale. Ci sono poi delle condizioni ambientali e meteo da osservare. Siamo in una regione in cui i cambiamenti repentini del tempo sono piuttosto frequenti, e quindi è importante sapere che potremmo trovarci in una situazione che non è quella che avevamo quando siamo partiti da casa. E a chi conviene o non conviene affidarsi? Affidarsi dalle persone esperte, quindi sicuramente se siamo alle prime armi, corsi di escursionismo, di alpinismo del CAI, i professionisti della montagna, guide alpine, un consiglio anche perché no al soccorso alpino, noi siamo sempre ben lieti di fare un po' di attività di prevenzione, di divulgazione, e poi non affidarsi, ecco, questo è un'altra trappola che spesso ci inganna, non affidiamoci ciecamente alla tecnologia, ormai i nostri telefonini hanno tutto, ma non si sostituiscono alle buone pratiche che dovremmo conoscere sempre. E anche in montagna il mattino a loro in bocca. Direi sì, perché i cambiamenti, i temporali, questo lo sappiamo molto bene, i temporali in genere arrivano in tarda mattinata, comunque nelle ore più calde, quindi se verso mezzogiorno siamo già sulla via di ritorno, se non addirittura con le gambe sotto il tavolo, è una buona cosa. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo della difficile e precaria situazione nelle carceri italiane dopo il suicidio di due detenute a Torino. La condizione dei penitenziari della regione per certi aspetti è migliore che nel resto d'Italia, ma restano i problemi del sovraffollamento e della carenza di personale. Oggi il viaggio della speranza a visitare i carcerati, organizzato da Nessuno Tocchi Caino in collaborazione con le camere penali che sta attraversando la penisola, ha fatto tappa a Tolmezzo. Ma qual è la situazione a Trieste? Sentiamo. I numeri non sono lontani da quelli nazionali. Il sovraffollamento è il problema principale anche nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. La situazione di Trieste non è tanto diversa da quella nazionale, conferma il direttore del carcere di Trieste, Graziano Pugia, con un sovraffollamento che fa spavento. Al Coroneo la media è di 210 detenuti presenti, a fronte di una capienza regolamentare che non supera i 150, con casi limite di 8 persone in una cella con un solo bagno. Questo è lo scenario nel quale si colloca il cosiddetto Piano Nordio, la proposta del Ministro della Giustizia per far fronte al sovraffollamento e che prevede fra l'altro l'impiego di caserme dismesse alle quali destinare persone che non si siano macchiate di reati gravi. Ben venga qualsiasi proposta, è il commento del direttore del carcere di Trieste. Per me va bene tutto purché si svuotino le carceri e si rendano umanamente gestibili. Quella è la mossa imprescindibile. Qualsiasi altra mossa per migliorare la qualità della vita nelle carceri viene vanificata perché la sofferenza principale è quella che nasce dal sovraffollamento. Ma i dubbi sulla realizzabilità della proposta non mancano. A sollevarne alcuni è Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio Internazionale sulla Legalità di Trieste. Si parte dai tempi. Mettiamo infatti che per incanto avesse ora tutti i progetti di riqualificazione delle caserme già approvati, ipotizza Sbriglia, i fondi per farlo, le gare già fatte e aggiudicate, i cantieri che fremono con i direttori dei lavori pronti a iniziare. Quanto altro tempo ci vorrà? E nel frattempo cosa di terribile potrebbe accadere? Le caserme non sono facili da riattare, continua. Possono nascondere tante insidie, sia nei manufatti che nelle architetture, che nei sedimi. Sono beni demaniali spesso ingombranti e difficili da gestire, perfino quando sono inutilizzati. Al problema dei tempi e dello stato degli immobili si affianca poi quello del personale. Oggi, continua Sbriglia, per poter riattare e mettere in funzione queste strutture c'è bisogno di uomini e donne, di personale penitenziario, quindi concorsi, a meno che non si reintroducano gli arruolamenti come un tempo. Ma occorrerà non solo assumere personale, ma pure formarlo. Nel mentre, che cosa si farà? Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Deve scontare una pena di 5 mesi di arresto per le numerose inosservanze al divieto di ritorno nelle Marche commesse nel 2009. Per questa ragione, una cittadina romena di 37 anni è stata fermata da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Eurisina, impegnata in un controllo di retrovalico a Basovizza. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura dalla procura di Fermo, che i militari hanno eseguito arrestando la donna e portandola al carcere del Coroneo. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali, OSMED, in tutta Italia, e il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione, aumenta il consumo di ansiolitici, antidepressivi e sedativi. In regione si è passati da 46,6 dosi per 1000 abitanti al giorno nel 2015 a 64 nel 2022. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Trieste, Marcello Milani. Indubbiamente la nostra esperienza non può che confermare i dati dell'OSMED. Diciamo che questo è dovuto essenzialmente a due fattori. Uno, all'invecchiamento della popolazione. Due, se parliamo di ansiolitici e comunque di farmaci antidepressivi, è legato evidentemente allo stato attuale. Quindi l'uscita dalla pandemia e l'inizio della guerra in Ucraina hanno comportato sicuramente delle preoccupazioni per le persone. Il maggiore consumo può essere anche legato a un calo dei costi? Assolutamente sì. Quando parliamo di ansiolitici, noi abbiamo visto che con l'avvento del generico vi è stata una riduzione del prezzo di vendita del prodotto. Questo di conseguenza ha comportato un incremento dell'accesso, perché chiaramente è diventato un po' alla portata di tutti. Secondo il rapporto dell'OSMED, molti sono i farmaci acquistati dagli anziani. Conferma? Certamente. La nostra è una popolazione che è invecchiata, è una popolazione che però per invecchiare ha bisogno di un supporto, e il supporto ovviamente è dato dai farmaci. Ci sono alcune malattie che si sviluppano in età, se non avanzata comunque, non in giovane età, come può essere il diabete, come può essere l'ipertensione, e di conseguenza solo grazie all'intervento dei farmaci si evitano gli effetti irreparabili di queste malattie. Il consueto sguardo al meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi e mezzo, a Gorizia, Udine e Pordenone 28 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 26 gradi, a Forni di Sopra 24 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 23 gradi e 5 decimi, a Sappada 24, a Piancavallo 21 gradi, sul Monte Zoncolan 19 gradi, sul Monte Lussari 16 gradi e 5 decimi, a Grado 28 gradi, a Lignano 30 gradi. La temperatura del mare in queste due località è di 27 gradi. Le previsioni per oggi pomeriggio: su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza sulla costa e caldo afoso in pianura. Sui monti cielo poco nuvoloso con zero termico a 4500 metri, che favorirà la stabilità, ma non si può comunque escludere qualche isolato rovescio. Per domani su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza sulla costa e caldo afoso di pomeriggio in pianura. E sui monti cielo poco nuvoloso con zero termico a 4500 metri. Dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o isolato temporale. Ha fatto tappa a Prepotto e ad Olegna del Coglio la manifestazione Calici di Stelle nelle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Protagoniste le eccellenze del territorio come lo schioppettino e la ribolla. Prossimo appuntamento il 17 agosto a Camino al Tagliamento. Sentiamo Giorgio Cattarin del coordinamento regionale delle città del vino. Calici di Stelle è una manifestazione che anno dopo anno sta diventando sempre più importante perché rappresenta sempre più comuni, quest'anno saranno alla fine più di 25 e ogni anno aumenta anche il numero dei produttori presenti a questa manifestazione. Per noi è una grandissima soddisfazione perché il lavoro che stiamo facendo sul territorio insieme ai sindaci e agli assessori si sta ripagando con dei numeri veramente importanti e quindi credo che una serata come questa qui a Dolegna e Prepoto sia la manifestazione più evidente del successo che sta riscuotendo sempre di più Calici di Stelle. Questo tipo di manifestazione aiuta a riconoscere la cultura storica della vitivinicoltura locale perché sono sempre presenti i produttori che sono in grado di presentare oltre ai vini anche la storia della loro azienda e quindi anche indirettamente anche la storia del territorio. L'intervista era di Maurizio Mervar. Ultime due settimane per visitare la mostra Quattro passi nel cinema di Pierantonio Quarantotti Gambini al Teatro Miela di Trieste. L'esposizione, realizzata dalla Casa del Cinema di Trieste, ripercorre il rapporto dello scrittore istriano con il cinema attraverso lettere di amici, di produttori e agenti. I documenti raccontano la genesi dei due film tratti dalle opere dello scrittore prima della sua scomparsa, L'onda dell'incrociatore e La calda vita. I soggetti, la sceneggiatura, le foto sui set e, per La calda vita, i manifesti gelosamente custoditi del film. Il visitatore può farsi accompagnare dalle atmosfere dei due film con cuffie audio, ascoltandone le scene. Raccolte nella mostra sono anche le lettere al regista Valerio Zurlini e quelle di Jacqueline Sassard, la moglie del regista, allo scrittore. In esposizione anche un soggetto cinematografico inedito, una sorta di favola ambientata in quella Russia che l'autore scopriva attraversandola nel 1960. La mostra è visitabile dalle 19 alle 23, tutti i giorni escluso il giovedì fino al 27 agosto. E siamo allo sport calcio. Dopo l'amichevole di sabato sul campo del Chiarlinz Muzane, prima del test in casa del Brescia fissato per sabato 19 agosto, la Triestina scenderà in campo mercoledì 16 a Visogliano per affrontare il Sistiana Seslian, formazione allenata dall'ex bomber alabardato Denis Godeas. Calcio d'inizio alle 18:30. Il tennis. Matteo Gigante ha vinto la 20ª edizione dell'ATP Challenger di Cordenons, dotato di un montepremi di $80.000. Il 21enne romano, testa di serie numero 4, ha sconfitto in due set l'austriaco Lucas Neumeier in poco più di un'ora di gioco. Gigante, pensaci tu, detto fatto, la 20ª edizione del torneo ATP Challenger di Cordenons da $80.000 di montepremi parla italiano, grazie alle prodezze del 21enne romano, tennista emergente in una delle stagioni migliori per le racchette nazionali. La finale contro l'austriaco Neumeier è stata la partita più agevole tra quelle giocate. Matteo Gigante ha perso un set al primo turno contro l'ucraino Orlov e poi percorso netto con 24 game persi in 4 match dagli ottavi alla finale. In media solo 6 giochi lasciati agli avversari per ogni partita. Nel primo set della finale Gigante ha dominato. Neumeier, forse stanco per la difficile semifinale contro l'azzanese Bonadio, ha subito il ritmo del tennista romano negli scambi senza mai riuscire a invertire la tendenza. Il 6-0 a favore dell'italiano non ammette repliche. Stesso copione all'inizio del secondo set, con Gigante subito avanti per 2-0. Neumeier ha tentato una reazione, ma sono stati ancora una volta i colpi vincenti del 21enne romano a fare la differenza. 6-0-6-2 è un punteggio severo per una finale, ma fotografa la differenza fra i due tennisti nell'atto conclusivo del torneo di Cordenons. Il movimento italiano gode di ottima salute e dal Canada è arrivato il risultato tanto atteso, il primo successo di Sinner in un Master 1000. Gigante avrà appena il tempo di mettere in bacheca il trofeo di Cordenons e poi volerà negli Stati Uniti per disputare le qualificazioni agli US Open. La sua classifica è migliorata grazie al successo nel Challenger pordenonese, ora è 161. Dietro a Sinner, Musetti, Sonego e Berrettini c'è anche lui, Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E con il tennis è tutto per questa edizione del Giornale Radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli. Da parte di Livia Liberatore e da Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.